giusta, giusta quella festa che ho io. No, già me lo faccio fare da una persona io, non ne tocco io, dalle sue sono. Zittina. Che in effetti mi devo divertire un po'. Antonio, a lui gli hanno detto che era 100 watt, però per fare la 100 watt ci devi a fare 4,55 al posto dell'MRF, così normalmente non ci può uscire 100 watt, come cacchio fai? Infatti, il finale ci vuole, e poi non conviene nemmeno, mi migrato a Nerone, mi grazie, mi faccio arrivare le bottiglie. E poi non è vero, non so se non sono 100 ma sono 60, fino a me non so bene, mettendo di 4,55 a 100 non ci arriva neanche se ti spari in bocca, 100 mi manda laterale, sì, quelli sono 60, cambiando il finale mettendoci di 4,55. Arriva la stella della Lemme ci vuole, quella che ho io, però bisogna sapere quale linea sono uscita, dico se quella, io la stella ce l'ho. Deve evitare il nuovo valore, solo che non so quando l'ingresso o quando l'uscita, solo la vedi agganciata in qualche palazzino all'interno, al limite, 34 canali, da vedere. Solo le faccio lo schema, quella scena lì la prende Fusano, capite? E adesso mi metto l'eco, così faccio schiattare Alessio. Bene, ecco, già ce l'ho io, se ci vuoi mettere salento, adesso ce l'ho. Ho recuperato io, sono sceso in campagna, è nuovo, adesso c'è la schiena, adesso ho iniziato i cavetti, i due potenziometri originali, e qua sulle barche per la schiena stiamo dentro. No, già sei in capo, è regreso. No, ci vogliamo anche mettere la schiena, ecco, guarda, ecco salenza di piazza adesso, tanto non è che c'è molto grande la schiena. Figurati. No, no, già rimane così questo. Cazzo. D'accordo, non c'è problema. D'accordo. Se però mi busco un 5,50 o 24 volte, c'è lo schiaffo dentro quelli che c'è in campagna. Grazie, voglio fare l'inera e faccio la base. Ma io già ce l'ho a Nerone qua. Cazzo, ci vogliono due valvole, cioè. Io non ne do, mia madre la figlia, ma se di là dove la saluta. No, io c'ho... devo fare a me il compagno di filare nuovi, come mi viene da mettere lineare. Preso la sfera del 5,50 o 7,50 ce lo schiaffo dentro, a quel punto di 2 euro che ho giù, lo faccio anche le lancia di alimentazione e lo strumentino del VAT e come si chiama, il potenziometro quella sede per essere positivo, non ci vuole altro, tanto sono uguali, invece di niente, no. Ma non è che c'è il VL 519 per caso, oh Alia, è mio, Ali. No, io magari, no, 80 io voglio. Ma se ce ne ha Alessio, se dice c'ha un BB 2001. Quella da fitto, ciò che ho detto. No, perché mi servono due valvole. Ehi, ma se ti do tutti e veniamo a vedere quanto riusciamo a buscarlo. Tanto me la giusto a Nero. E ho fermato di parlare a cose che si sente dal mio. Mi brutto di uno e metto a parte. A me non è che si sente. Ti devo telefonare. A te fanno i telefoni, si devo prendere. Ci vuole solo la licenza d'ingresso, basta, non ci vuole altro. E di là non è stato mai trattato. C'era solo la licenza d'ingresso perché è stato pilotato col... costato me con 15 bar in ingresso, si è abbracciata quella lì, non c'era altro, perché lui l'ha provata e l'aveva pochi bar, perché c'era la stessa abbracciata. Ma mi compro le due valvole, ma è giusto questo qui, tanto fa RDX, mi serve, giù. Lo metto a 5 bar e poi a fare quelli. Ma come ti ho detto, ho passato a cosa, che fare una passeggiata in macchina, a provare di 92 di a quelle linee da 2 kW che c'ha adesso qua, fatti autocostruiti da un po', da un ex rianimatore. Già mi basta le robe. Io volevo farti arrestare a causa dei capelli. Basta l'auto, perché non la scatti a Nerona? Perché devo trovare la sistemazione, è troppo vicino adesso, magari fa casino se l'attacco qua. Ah, ok, a vedere cosa succede. Non sono quelli che devono essere, però un po' più della metà già, sì. Già lo so, ma lo mettiamo a posto quando busco quelle cose là. Almeno sono sicuro, sono tranquillo, come ho detto in tutto, quando voglio fare due cose faccio il stand-by. Quando devo dare tac. Cos'è le piscine? Nerone, quello nero che c'ho io. Che altro se ti passavano, capito? È un vero vecchio, se si è attaccato qua, ti passa a fuzza. Ma la passavo perché non ti riposo la tua piove. Ma ci no più. Bella risposta. Aspetta che te, me ne vengo sotto per la tua, a vedere se passa tutti quanti. C'è passato, ma io lo vedo, non ti scusate che mi faccia. E poi questo sarà anche il duro. E fa costare la sbaglia, non credo di sì. E poi se vuoi vedere la tua rubrura, lo scala anch'io. Ah, se no se ti metti qua sotto, sì. Se no... lo passo, Antonello, lo passo. No, ma no, e come mai? A voi. Antonello, anche io ti ho passato, eppure non sono sotto per il Natalino. Vabbè, io sono alterato la macchina. Aspetta, quando c'ho la matto va su, ti faccio vedere io. Faccio schiacciare. Allora passo a questo brutto porco di Antonio. Antonio, allora passo, Antonio. Natalino sta cadendo il tubo da pompare, 9:10 arrivi Natalino, però quando l'hai acceso sei sempre fatto via di radio. Sì, perché l'ho ammazzo. L'ho crepato di radio. Sì, sì, quando è entrato sì, alla prima cosa era passo passo, l'hai crepato di radio. E adesso dove ti arrivo? Dimmi dove ti arrivo, Lessi, aspetta una notte. Scendo adesso. È solo l'ernia. ti deve scendere in terra, detto in italiano. Servo di Maria la Mansa. Vabbè, ma sei bravo. Bene, va così. Andava bene anche prima. Così si asciuga l'antenna. Ve umbeno. Sì, io lo faccio per asciugare l'antenna, non per altro. Adesso sono proprio come Lincoln. Dicendo io, bene, anche nell'antenna che è così almeno ci provo più gusto. Cosa vuoi che ti devo, che ti do Mattana, eh? A me Mattana non mi dai, no? Guardate che ci vengono i maturati. Effettivamente è anche una cosa che ho sempre valutato, che mi sa niente nel spazio, io che non avevo avuto più nessuno, in parte la ripia del Signore. Ma col microfono ancora ce l'hai quello che ti sentivo da tutte le parti? Il microfono che mi sentivi da tutte le parti? Certo che ce l'ho. Ma quello era l'apparato che mi sentivo di tutte le parti. No, c'è l'apparato, c'è il microfono, c'è tutto quanto. Non sono di quelli che vendono indiscriminatamente. Cazzo. Mi sembra un malato che non era vero. Esattamente, prima lo dai dopo lo zecchi. Allora, sono dato c'è un motivo. Figli. Anzi, la targhetta omologata l'attacchi al Lincoln, e c'è il Lincoln omologato. Antonio c'aveva l'FM250, anzi l'FM250S, insomma. Aveva attaccato la targhetta omologazione di omologazione delle 500S da Rizzo. Sono bastardo, mentre fuori. Non parli, proprio, non parli. Si trova a 700 canali. Così me l'ho fatto in macchina Lincoln. No, no, vuoi rimane qua, non è buono in macchina. Ma non buscano di quegli apparecchietti così per mettere in macchina. Devo dire solo voi, 74 penali, 40 euro, viene già lunedì. Se mi aspetti il 15 quando decido lo tengo, vengo me lo figlio. Ce l'ho io digitale 40 canali, 250 euro, una tarichina e tre figli. Bello, c'ha anche i tasti illuminati. C'ha il display che è tutto illuminato, con tutte le lampadine colorate, con le... si vedono anche i film porno, vedo che ti piace. Tutte panne modulari puoi già attaccare. Infatti a me non mi sembra modulare, ma poi sarebbe un po' la mano. Ecco incorporato 12 modulatori addirittura, ne ha pochi. Cazzo, 12. Ecco, non a ricordo, a F12, a F10, caccia statunitense. Ecco, 12 modulatori, dove la sua? Sembra che sono 200 watt, non ci arriva, ma 190, tranquilli, tranquilli. È grande quanto, più piccolo di un coso, dell'FM500F. Sapete che è interessante, ma la turbina ce l'ha quella che fa, quello che muove la faccia. E io così, ti pone 220 di bani, tu la fate poi fare un posto. Tanto interessante, posso pure lo spuntinare mentre sto scattando la gente. Però c'è un problema, questo deve essere sincero. C'è un piccolo problema. E tu ti hai problemi, dimmi. Cade chi c'è l'abbottante, cade chi c'è la cosa lì, cade, wow, e basta. Allora, aspetti, sì. Ma tu puoi mettere 190 watt puliti modulati, puliti su tutta la banda HF, più un bel po' di VHF, non sta bene, è un vantaggio. Si intende, che ci sono adesso nei primari esibiti? E vuoi mettere che figata? Solo che mi provoca la voce fastidiosa, scommetto, anche... E tu fa quando fai così. Sì, fa wow, e poi fa Guarda, è una modifica che mi ha fatto un tipo di Cagliari. Per quello che era accesinosa la modulazione. Anche a Cagliari tu sicuro la tubercolosi, se non entra. Ma le fanno accesinose e poi diceva che abbiamo dei gusti tutti Coca-Cola, alla fine con la popolazione invece del video fa wow. Sinceramente non te lo so dire. mi sembra un po' tardi, perché siamo in inverno, e anche il periodo. Nel frattempo, mi pare solo una cosa. Ieri con il cacchio di rotella che c'hai, ma al centro, me lo scusi. E vabbè, no, per questo c'era qualcuno che parlava di là. Già lo so dove andrà. Ma io dico la roba, non è il prosto. E c'entra, e non ce ne vai. Fra poco bisogna andare a fare la zona, così fare 45 metri pure io. Diciamo, poi dovrò fare un sacco di cose. No, davvero, mi avrei a fare pittina. Appena possibile. con quei camionisti che lo, so, che lo sanno fare loro. Ma non so se tu per macchina di un incontro mi sei fatta la visa, mi sei fatta la bella mia gioca. Forse ho capito. Oh signor. Una gioca. Ha fatto i tipi vicino alla macchina, abbaggiava e entrava la macchina per non scusare i guasti, che non come. Ma non è che c'è troppi bassi in quel e altri non avevo niente, stava dicendo Robert, in quello mi più 4. Sì, ma non è il microfono, è l'apparato che è stato tagliato per fargli la voce rossa, cioè quello che tu hai combinato. Ma non parlo in quel tavolo apparato lì. La Uniden. Produttrice di quegli apparecchi lì ha passato bene di non seguire a farci il numero della resistenza. Quindi sulla resistenza senza numero. Quindi non si può fare un confronto con lo schema. Ed è molte volte per quel motivo le riparazioni sono un po' difficilotte su quegli apparecchi. Sul ciclo del fatto non ci hanno serigraffato il numero della resistenza. Figura. E neanche dei connessori per dire. Aspetta un attimino l'allarme del PC sul riscaldamento, un attimo la controllo. Sono rientri. Anch'io sono rientri, sono qua. Con la scusa di controllare il temperatura dell'attrezzo di tornare in cucina, perché c'è un secondo di cortese l'agnello, ho preparato a pranzo, segna cosa buona, ma non ha mai una cosa del genere, cortese di agnello arrosto, via. Stavo vedendo, quando la vecchia ce l'hanno passata qualcuno, però se ne sai cuffando tutto. Non lo sento più neanche a quella micronostro, a Giorgio, chissà che fine ha fatto, anche lui. Ma dove non l'hai sentito? Qua è super fatto il prezzo, ma è sulle altre c'è. Non c'è, gira. Qua facendo le sue solite abituali viaggi intercontinentali. È probabile, perché trovo la frequenza un po' defunta. Esatto, se non lui che tiravo gli altri, gli altri stavano appresso. Meno male qualcuno si affacciava, ma. Cazzo, non questo ti dicevo tutto rauce di noso. Ti dicevi rauce di noso? E non è che anch'io ricevevo, visto che c'ha una recessione allucinante. E non è proprio per telefono, perché l'ho avuto 10 anni fa, l'ultimo tempo fa qualche mese. Radio Lumidurato, non mi è piaciuto proprio per niente, sta dove sta in frequenza, faceva schifo, fa parlando di quello del buio naturalmente, faceva schifo, modulazione faceva schifo, ricezione faceva più schifo, della modulazione aggiungeva del buio. Non è notato che non ha, c'ha PA e però la presa del PA non ce l'ha, la presa per le cuffie non ce l'ha lo stesso, buh. No, già c'è. Si per connettere il parlato che c'è dietro. Lì c'è il PA e le cuffiante. Anche il connettore quadrato. Di essere. C'è il PA, le cuffie e il fatto del cibuluccio. C'è la presa quadrata. Di essere. Ergo bisogna. Ma dimmi tu se ne va una affrontata simile. Ma sinceramente secondo me è un mezzo aborto, c'è un difetto di fabbrica, le cose fanno solo determinate apparecchi. apparecchi, diciamo l'80% degli apparecchi lo fanno, non fanno tutti, e dipende da dove sono stati costruiti. Poi l'80% degli apparecchi c'è un difetto del rientro, se gli metti il microfono amplificato. Non so perché l'hanno progettato, dice, quello mi ha dato fastidio. Ma infatti non l'ho mai adottato come radio di stazione, non ho avuto sincero, non mi ha mai entusiasmato. Ah, si è svegliata qualcosa? Auguri, è un incendiato. Aspetta, si è svegliato qualcosa, ho letto. Ho capito, incendiato. Si è svegliato qualcosa. Qualcuno del Prima Arena sta diventando sul arancione e giallino chiaro. Mi ho sentito nella frequenza di qua. Nella frequenza che usano qua, quella vecchia. Sì, quella a fare non c'è niente da fare, non ce n'è più. Non ce n'è più, c'è tutto un po' di là. No, andavo via. Normale, 5.25. Vieni che c'è gente, non sono tutti morti. Meglio spegnere, sennò si sente in giro. Stavamo parlando di quella cosa, no, non ve ne più ormai, siamo dei finiti. Sono relativamente pochi, effettivamente. Se pensi ai 5 watt della parte, perché sono un pochino. Aiutino l'anno, non sta bene. Aiutino l'anno. Aspetta un attimo, non capisco un cazzo, cambia parecchio. Mamma mia. Parla, cosa stavi dicendo? Con quello lì, come mi piacciono le modulazioni basse a quell'altro. Cosa vuoi ti dica? Allora, se ti ascolto bene qua, non c'è problema. Ehi, parli fin due, parli fin, c'è una modulazione negli altri. Ma già c'è il burro io, lo allargo. Io ti consiglio un po' di sabbia rossa. Io ho un po' di sabbia grossa, però non avete abbastanza di gallino, col burro non fa niente. E ci va via, altro che me lo, come ti dicevo, mi chiamavo vicino a punta fine, un po' di vasellina e tutto è risorso. E poi un po' di vasellina è un grosso, un connettore grande, non lo capisco, ma vi posso vedere facile, però è un bello. All'improvviso in agguato era. Aspetta, scusami un po'. Ok, ciao, ciao Antonello, ciao Natalia, e ciao per gli ascoltausi che ci sono, ma meno ciao a tutti. Impegnatore. E ascolta, ci sentiamo dopo, là. Va alla fine della nostra riporta della birra, poi ci sentiamo, là. Buonasera, Antonello. Allora, invece mi preparo che ci accendiamo dalla mano. D'accordo, d'accordo.